se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Se non sei mai stato nel deserto, non sai che cosa è il niente. Niente è girarsi da tutte le parti e trovare solo questo, niente. È un mare immenso, di terra, è un silenzio che non si rompe nemmeno con la tua voce. La notte, il niente sembra farsi eterno, a tratti diventa così assoluto che sembra unirsi al tutto. Ma allora, giusto sul nascere del giorno, il niente ricomincia a disegnare. Il Lote Bravo è dipinto di niente. Sulla strada verso la periferia il panorama cambia lentamente. Il Passeo Trionfo della Repubblica diventa tecnologico, poi si trasforma nella strada panamericana e più in là, in deserto. All'altezza del chilometro 30 solo costruzioni di ferro sopravvivono e i rumori della città si convertono in un brusio di automobili che vanno e vengono in una zona che diventa solo di passaggio. Il Lote Bravo è zona di maquillas che servono solo a dissimulare a prima vista il vuoto di sabbia fine che esiste un po' più in là. I piccoli arbusti che sembrano messi lì a caso, secchi, scuri, tristi, ti dicono che questo è un luogo senza vita. Chilometri d'asfalto tagliano il deserto. Intorno a questa unica via, le colonie sorgono come una speranza fatta di latta, cartone e filo spinato. È il segno di vita che la modernità immette a forza nel niente del deserto. Di vita così come di morte. E questo è lo scenario dove si svolge appunto la triste storia di questi sistematici omicidi di donne che oggi tratteremo, in una città dove la periferia fagocita evidentemente il centro. My world is empty without you, babe. My world is empty. E allora Ciudad Juárez, la frontiera. Uno scenario pianificato da un manipolo di uomini d'affari, di proprietari terrieri, di politici, ovviamente senza scrupoli, i cui interessi hanno trovato un punto importante di convergenza nel trattato del NAFTA, il trattato di libero commercio tra Messico e Stati Uniti. Uno scenario evidentemente di sfruttamento, di sopraffazione, dove se non si muore appunto di morte violenta, si muore lentamente dentro le maquiladoras. Le fabbriche dove si producono componenti da assemblare, che sono la quintessenza del modello multinazionale di produzione. Uno scenario dove sfruttamento, corruzione, violenza, impunità danno vita ad un inferno vero e proprio e fanno di Ciudad Juárez uno dei luoghi al mondo più pericolosi per le donne. Without you, babe. 460 sono le donne assassinate negli ultimi 10 anni e oltre 4.000 sono le donne scomparse, questo secondo i dati ufficiali, per non parlare ovviamente della diffusione ormai capillare della violenza domestica. Il dato sistematico della violenza contro le donne a Ciudad Juárez gli ha valso essere di ispirazione per le studiose e gli studiosi di scienze antropologiche e sociali nel coniare il termine, ormai appunto anche quello tristemente famoso, femminicidio. Un termine che indica l'uccisione di una donna in quanto donna, ossia in ragione esclusiva del suo essere donna. In darkness with memory. I know so well. I need your love more than before. I can hardly carry on anymore. My world is empty. Il giornale è l'Universal, domenica 27 maggio 2007. Una donna di circa 25 anni è stata rinvenuta morta ieri in un borrone nella colonia Insurgentes, a nord-est di Ciudad Juárez. La vittima, ancora non identificata, è stata rinvenuta nuda e con evidenti segni di violenza. I suoi vestiti erano ordinatamente disposti a fianco del corpo. Il corpo della giovane aveva in varie parti segni di arma da fuoco. Nessuno però nella colonia ha sentito rumore di spari. Si tratta del secondo omicidio di una donna in una settimana. Martedì 22 maggio 2007 è stata infatti rinvenuta nella stessa zona un'altra ragazza di 14 anni. In questi primi 5 mesi del 2007 sono state rinvenute già 14 donne assassinate e 2 scheletri di sesso femminile. Right between fear and mountains, just beneath blues and birds, right next to the sun. Questo che vi abbiamo letto è uno dei molti articoli, purtroppo molti, che ogni settimana si possono leggere sui quotidiani della zona. Questo risaliva al maggio di quest'anno e ve lo proponiamo esattamente così come l'abbiamo trovato, perché nel caso di Ciudad Juárez è bene ricordare anche di che tipo di omicidi si tratta. Questo nella fattispecie ce lo raccontano le donne che abitano questo inferno e che dalla metà degli anni 90 si sono organizzate per denunciare questi crimini. La negligenza degli investigatori, l'impunità che assicura agli assassini ovviamente di permettere la sistematica continuità di questi crimini. Le voci di queste donne ci raccontano non solo di una violenza generalizzata contro le donne, generata dalle condizioni di vita, dal sistema economico e sociale, però ci raccontano soprattutto di queste centinaia e centinaia di omicidi rimasti impuniti a danni di donne, tutte giovani e povere, che vengono sequestrate per strada o lungo il cammino deserto verso la fabbrica dove lavorano, vengono tenute prigioniere, torturate con una brutalità inimmaginabile, poi uccise e infine abbandonate da qualche parte, in un campo o nel deserto. E questa è una barbarie che si ripete e si ripete ovviamente da molti molti anni, che le autorità cercano di far passare sotto silenzio. A Ciudad Juárez molte, moltissime giovani donne, a volte così giovani da poter tranquillamente essere definite bambine, vengono rapite, uccise lentamente e poi abbandonate da qualche parte. A volte sono scheletri e il riconoscimento è molto difficile. Certo, si potrebbe dire che a Ciudad Juárez, per la cronaca, c'è il miglior laboratorio di analisi del DNA del mondo, uno dei più avanzati, ma questo evidentemente non viene messo a disposizione delle donne vittime del femminicidio. Questo è al servizio dei soldi del narcotraffico, del potere politico o di entrambi, come nella maggior parte dei casi. A volte i corpi indossano vestiti diversi da quelli che indossavano il giorno della sparizione. Spesso si tratta di vestiti che qualche altra madre ha denunciato come indossati dalla sua figlia a sua volta scomparsa. L'ennesima ragazza, appunto, uscita di casa e mai rientrata. Allora si fa ovviamente confusione, viene chiamata una madre invece che l'altra. Per questo adesso le madri delle scomparse si accompagnano a vicenda all'obitorio, per il riconoscimento, ma anche per far fronte comune alle offese che i poliziotti rivolgono alle madri, alle umiliazioni a cui le sottopongono con la loro negligenza consapevole, più che consapevole. E venivo io correndo, olvidandomi di te. sono errori grossolani quelli delle indagini, inquinamento delle prove, perdita di fascicoli, superficialità, questo appunto è il tono delle indagini che vengono svolte sugli omicidi o i casi di sparizioni di giovani donne Ciudad Juárez. Ed è per questo ovviamente anche che le madri delle scomparse o delle ragazze ritrovate in seguito cadavere si sono messe a leggere i fascicoli che riguardavano gli omicidi o le sparizioni e hanno cominciato, coadiuvate ovviamente anche da alcune avvocate, a svolgere indagini parallele, alternative. Ed è da queste indagini che è emerso appunto questo dato inquietante di questi crimini, un dato che noi oggi conosciamo e il dato che ha fatto coniare il termine femminicidio. E allora dicevamo, le madri direttamente coinvolte nella sparizione o nell'omicidio della figlia hanno cominciato a vedere, a studiare le carte dei fascicoli che riguardavano le loro figlie, le giovani donne scomparse o uccise, e hanno cominciato a vedere delle similitudini in più di 400 casi di omicidi di donne a Ciudad Juárez. Similitudini innanzitutto nella tipologia delle vittime, che sono tutte giovani, belle, povere, quasi tutte impiegate con una paga che appunto dire misera è poco nelle maquilladoras. Similitudini anche nella modalità di ritrovamento, spesso con le mani legate dietro la schiena, spesso scarnificate in alcuni punti del corpo, mutilate in modi molto simili, spesso anche appunto con vestiti appartenuti ad un'altra ragazza. Similitudini ancora nel modo in cui è disposto il corpo al momento del ritrovamento. Ricorrono anche i luoghi di ritrovamento, che sono per la maggior parte appezzamenti di terreno a margine del deserto. Persino il giorno del sequestro, il mercoledì, ricorre in molti casi. She looks so beautiful. E infine, ma non ultimo, ricorrono anche gli stessi nomi di poliziotti, di funzionari che nella migliore delle ipotesi si sono mostrati negligenti nella risoluzione del caso e nella ricerca dei colpevoli, se non proprio, come molte madri affermano, hanno avuto una certa connivenza con il crimine, nella misura in cui comunque hanno affossato e letteralmente ostacolato in molti casi le indagini. Rita Segato è un'antropologa che si è interessata all'analisi di questi crimini, ha fatto un'ipotesi che le donne delle associazioni ritengono interessante, a cui hanno insomma comunque dato molto credito. Rita Segato è partita dal presupposto che chi lascia un cadavere in un luogo pubblico all'aria vuole che sia ritrovato, dunque vuole comunicare qualche cosa. Inoltre lei individua una scrittura precisa in questi corpi mutilati di queste giovani ragazze, una scrittura che secondo l'antropologa viene letta alla fine da qualcuno. E da qui quindi l'ipotesi che la vita di queste ragazze, tutte giovani e povere, serva niente meno che al dialogo tra gruppi mafiosi, di narcotrafficanti, che le usano per iniziare nuovi adepti, poi le abbandonano in un territorio che appartiene probabilmente a qualche altro mafioso, il quale legge ovviamente il messaggio ed evidentemente risponde. Quindi si tratta niente po' di meno, secondo l'antropologa, ed è una tesi abbastanza accreditata, di patti di sangue tra mafiosi, narcotrafficanti, ricchi criminali, sigillati ovviamente con il sangue di una giovane donna completamente innocente ed estranea a queste vicende. E ovviamente potrebbe essere anche questo, no? Il motivo per cui molti di questi omicidi restano impuniti. Et on s'approche dans ces prises.

Yo soy Ramona Morales, madre de Silvia Elena Rivera Morales. Pertenezco a la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Mi hija desapareció en un 7 de julio de 1995. Io sono Ramona Morales, madre di Silvia Elena Rivera Morales. Appartengo all'associazione Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Mia figlia è scomparsa il 7 luglio del 1995. Mia figlia è stata tra le prime. Mia figlia aveva appena 16 anni, andava al secondo liceo. E dunque la voce di Ramona Morales, che fu la presidente dell'associazione Nuestras Hijas de Regreso a Casa, associazione che raccoglie i familiari delle vittime e delle scomparse, e noi l'abbiamo intervistata nel 2003. Purtroppo la sua testimonianza è ancora più che valida e quindi abbiamo estrapolato dei brevi minuti, 6, in cui lei semplicemente, ma ovviamente non con grande facilità, racconta la scomparsa, le ricerche e il ritrovamento di sua figlia Elena Rivera Morales, e in questo caso anche illustra abbastanza bene qual è l'atteggiamento delle autorità nei confronti di queste donne. Mi hijo, esa mañana del día 7, mi hijo el mayor la fue a dejar hasta las puertas de la escuela. Nosotros somos pobres, mi hija estudiaba y trabajaba en una zapatería. Mio figlio, il maggiore, la mattina del 7 la lasciò davanti alla porta della scuola. Noi siamo poveri, mia figlia studiava e lavorava in una fabbrica di scarpe. Quel giorno mi aveva detto che sarebbe andata direttamente nella fabbrica di scarpe per tornare presto, per non rientrare la notte. Verso le 2 del pomeriggio mi chiama una sua amica e mi dice che Silvia era andata a cercare Silvia, ma non era nello scarpificio, e mi dice che non l'aveva trovata, che non era lì, e così passò tutto il pomeriggio, arrivò la notte e io aspettavo mia figlia. Ma mia figlia non tornò più. Nos fuimos a buscarla, io e mio esposo per un lado e i miei figli per l'altro. Allora ci siamo mossi per andarla a cercare, io e mio marito da una parte e i miei figli dall'altra. Saranno state 1 e le 2 del mattino quando, appunto, non llegava, si levantò. Ella trattò di aiutarmi parlando. Chiamai una mia amica, lei si alzò, mi aiutò chiamando gli ospedali, la Croce Rossa. Casomai ci fosse stato un incidente, perché mia figlia non aveva mai ritardato né mancato di rientrare. Però tutto fu inutile. Io sono andata il giorno dopo allo scarpificio dove lavorava mia figlia, ci andiamo io e mio marito molto presto. E io chiesi alle ragazze che lavoravano lì nella fabbrica insieme a lei se avevano visto Silvia, ma loro ci dissero che il giorno prima Silvia era uscita alle 2 del pomeriggio, e chiesi: non è tornata? No, non è tornata. Allora andammo a fare la denuncia, ma ci dissero che no, che non potevano fare niente entro le prime 72 ore di assenza, e che nel migliore dei casi era andata con qualche fidanzato, con qualche amica, e dovevo aspettare. Dopo le 72 ore tornammo io e mio marito, ma loro non la stavano nemmeno cercando. Io andavo a chiedere perché mi dessero notizie, ma loro mi dicevano che non mi potevano dire niente delle indagini che stavano facendo. Così però passava il tempo e non mi dicevano niente di mia figlia. Intanto erano scomparse altre 3 ragazze, una a maggio, mia figlia si perse a luglio, e in agosto e settembre scomparvero altre 2 ragazze. Le loro madri mi cercarono, ci unimmo, siamo andate a parlare con il procuratore, lui però ci disse davanti a noi, davanti ai nostri occhi, che non eravamo a conoscenza del fatto che le nostre figlie avevano una doppia vita, che noi non sapevamo con chi andavano, se si accompagnavano con qualcuno. Eso fue la respuesta que nos dio el procurador de justicia. E questa fu la risposta che ci diede il procuratore di giustizia. Así pasó el tiempo hasta que mi hija iba a cumplir dos meses, que fue un día 2 de septiembre, cuando a ella la encontró un señor. Così passò altro tempo ed erano già 2 mesi che era scomparsa, finché il 2 di settembre un signore la trovò nel Lote Bravo. Dunque in questo 2 di settembre vennero, il poliziotto mi disse: abbiamo sua figlia. Io: ah, bene. E mi dissero che volevano che li seguissi al cimitero. E io: sì, andiamo. Chiesi a mio figlio se mi portava lì, e lui: sì, così siamo andati al cimitero. E il polizia no lo apiò della patrulla e le dijo: mio figlio fece per accompagnarmi su, ma il poliziotto no, lo ha fermato, messo nella volante, dicendo che lui non poteva venire con me, che dovevo salire solo io. Così sono andata sola, e già quando abbiamo girato l'angolo siamo entrati dove ero stata a vedere le altre ragazze. Io già mi di cuenta che mia hija già stava morta. Mi resi conto che mia figlia era morta, perché loro non me lo avevano detto, non mi avevano detto che l'avevano trovata morta. Però mia hija, come che sono entrata e ho riconosciuto mia figlia, però mia figlia era come, non mi spiego, non so se l'hanno in una parte o la tiraron luego perché mi se l'hanno tenuta da qualche parte molto tempo o l'hanno uccisa subito, perché mia figlia non aveva segni. Perché io dico, se è passato tanto tempo, sono passati 2 mesi, se fosse stata uccisa io avrei trovato solo lo scheletro o se lo sarebbero mangiata i vermi, non so. Mi hija nomás aquí era donde no tenía carne, nomás en su cara no tenía carne. Solo sul viso mia figlia non aveva carne, ma dal collo in giù aveva la carne secca, attaccata alle ossa. Encontré su ropa, sus zapatos y todo. Ho riconosciuto i suoi vestiti, le sue scarpe e il resto. E allora sono passati 12 anni dalla scomparsa, dall'omicidio della figlia di Ramona Morales. Lei continua però fino ancora ad oggi a cercare giustizia insieme alle altre madri. La seconda voce invece che vi proponiamo questa sera è più attuale, diciamo, se non altro è stata registrata 2 settimane fa, è un'intervista a Marisela Ortiz Rivera, anche lei dell'associazione Nuestras Hijas de Regreso a Casa, e l'abbiamo incontrata 2 settimane fa alla Casa Internazionale in una iniziativa promossa e organizzata dalle Donne in Nero. Lei integra, diciamo, aggiornandoci sulla situazione attuale. Nuestras Hijas de Regreso a Casa nace desde el 2001 y desde entonces ha venido trabajando con los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas y con el acompañamiento de una asociación democrática de abogados en México. Nuestras hijas de regreso a casa è un'associazione che nasce nel 2001, da allora lavora con i casi di donne assassinate e scomparse, lo fa con l'aiuto di un'associazione democratica di avvocati messicani. Questo ha permesso di portare 6 casi davanti alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani e 3 di loro sono già stati sicuramente accettati come casi e saranno discussi nella Corte Interamericana. Inoltre aiutiamo le famiglie quando scompare una figlia. Per fortuna il nostro lavoro ha già ottenuto buoni risultati, abbiamo trovato 3 ragazze ancora vive e abbiamo promosso azioni perché le ricerche siano più rapide e perché le autorità facciano maggior attenzione a queste sparizioni, perché non possono continuare a farlo come nel passato. In ogni caso questo non è bastato ad evitare che le sparizioni delle giovani continuassero. Fuori dai dati ufficiali si stima che solo quest'anno ci sono 92 ragazze scomparse, tutte nell'età, come la chiamiamo noi, di alto rischio. Che sería como entre los 14 a los 19 años, incluso pues también. Che sarebbero appunto l'età di alto rischio, sarebbe tra i 14 e i 19 anni, anche se ci sono bambine che sono scomparse. E ora siamo molto preoccupate perché questa pressione politica che è stata esercitata sul Messico da diversi paesi del mondo ha obbligato a dare un'immagine diversa, buona, del nostro paese, in particolar modo di Ciudad Juárez, che è invece diventato un luogo emblematico della violenza contro le donne e dell'impunità. Dunque le autorità adesso fanno di tutto per non far conoscere i fatti e dunque mantengono il silenzio, e così corriamo il rischio che le cose si complichino, che diventino peggiori di prima, di quando abbiamo cominciato questa lotta. Sono stati rinvenuti diversi corpi con segni di molte violenze, corpi ritrovati in mezzo ai campi, corpi di donne abbandonati, con pochi vestiti addosso, con la camicetta alzata sopra il busto. E quello che ci preoccupa molto è anche che le autorità parlano di morte per causa naturale, e questo è un insulto alla comunità, un insulto all'intelligenza che loro credono che non abbiamo, perché in nessun modo possiamo credere a una cosa del genere. Questo però non ha suscitato proteste, è una situazione in cui nessuno vuole assumersi delle responsabilità. Noi stiamo lavorando a livello internazionale con associazioni statunitensi silenziosa però forte, per fare ogni mese una protesta silenziosa ma forte, conflittuale, per esigere soprattutto la trasparenza delle informazioni, perché è molto importante che la comunità sappia quello che succede e prenda anche le sue precauzioni, dal momento che lo Stato non offre garanzie di vita, una vita degna che meritiamo noi cittadine e cittadini di Ciudad Juárez. Las cosas van mejorando en el sentido de que hay más solidaridad. Questo è molto preoccupante, ma ora sembra anche che le cose migliorino, nel senso che c'è più solidarietà. Adesso siamo in apprensione sperando che l'ONU riapra i casi e non li faccia cadere nell'oblio. Come dice Amnesty International, ci sono diversi modi per assassinare una persona e una di queste è dimenticarla, e questo non possiamo permetterlo. Queste donne noi dobbiamo ricordarle. Le autorità locali sono impegnate a coprire e togliere tutte le croci che abbiamo messo nei luoghi dove sono state rinvenute le giovani donne assassinate, però questo noi non lo permettiamo. Faremo delle croci più grandi, più forti, ridipingeremo le croci che avevamo pitturato e ci uniremo. Ci uniremo più di quanto non stiamo già facendo affinché questo non avvenga più, non si permetta. Dobbiamo continuare a lottare, a far emergere il tema. Non possiamo permettere che venga meno l'attenzione internazionale sopra questo tema. La mia presenza qui in questo senso è molto chiara, racconto le circostanze e dico attenzione, le cose non vanno bene, non è come dicono i nostri governanti. Stiamo male, a Ciudad Juárez le cose vanno male, le autorità si stanno applicando, sì, hanno migliorato le investigazioni, però si stanno concentrando solamente sui casi attuali e che sono riconducibili alla violenza domestica. Questi crimini invece con queste caratteristiche, le giovani donne sequestrate da sconosciuti che le tengono sequestrate e le violentano per vari giorni. questo no, non si risolve, non c'è mai nessun responsabile. Entonces es muy preocupante. Esto está ocurriendo todavía actualmente. È molto preoccupante. Sucede y estamos denunciándolo. Bueno, no, nosotras fundamentalmente hacemos trabajo jurídico. Coadyuvamos para las investigaciones de los casos de mujeres desaparecidas. Noi facciamo fondamentalmente un lavoro giuridico, coadiuviamo durante le indagini sulle donne scomparse o assassinate, accompagniamo le famiglie perché non abbiano il problema che molte madri hanno avuto in passato di essere trattate ingiustamente dalle autorità. Vamos con ellas para que los pasos sean directos. Adesso le accompagniamo perché i passi siano diretti all'obiettivo, promuoviamo azioni, raccogliamo informazioni, in una parola, coadiuviamo i casi. Nel caso de las mujeres desaparecidas también hacemos un trabajo comunitario, tenemos trabajo. Anche nei casi delle donne scomparse facciamo un lavoro comunitario, facciamo un lavoro in diverse scuole, una volta alla settimana organizziamo incontri sulla prevenzione, soprattutto con studenti e ragazze che sono nell'età del rischio. Lavoriamo con terapia occupazionale, abbiamo attualmente un gruppo di 72 bambini con cui stiamo lavorando dalla scorsa estate, familiari delle donne assassinate o scomparse, e abbiamo fatto un incontro estivo, uno in autunno e inverno, e ora l'incontro si farà nella città di Madrid con 50 bambini. In realtà Ciudad Juárez è la frontera más importante de la República Mexicana, donde han asistido. Ciudad Juárez è la frontiera più importante della Repubblica Messicana, dove ci sono milioni di persone. Attualmente siamo quasi 2 milioni a Ciudad Juárez. La maggior parte della popolazione viene da fuori in cerca di lavoro o per cercare di oltrepassare la frontiera con gli Stati Uniti. Molte di queste persone si stabilizzano a Ciudad Juárez in una situazione molto irregolare, insalubre, in luoghi sprovvisti dei basilari servizi, e questo rende le famiglie più vulnerabili. O in pequeños negocios del centro della città. La maggior parte delle donne vittime lavora nelle industrie maquiladoras o in piccoli negozi del centro della città, alcune sono studentesse, altre casalinghe. La maggior parte sono giovani, delicate, belle e vengono da altre città. Come questa situazione in Ciudad Juárez ha hecho más vulnerable a la mujer. Questo ci dice di quanto questa situazione a Ciudad Juárez ha reso le donne molto più vulnerabili. Sono mujeres che sono altamente esplotadas. E relativamente alle industrie maquilladoras si tratta di donne che sono maggiormente sfruttate, a volte lavorano fino a 12 ore, la paga settimanale è meno di $50, e questo è un lavoro molto faticoso che ha anche trasformato la società, anche perché queste donne hanno figli e questi figli passano molto tempo da soli, fuori controllo, per tutto il tempo in cui la donna lavora. Nella maggior parte dei casi non c'è un padre e il 60% delle nascite a Ciudad Juárez riguardano madri sole, e dunque queste madri devono far fronte a molte urgenze. Non esistono ad esempio asili per le madri che lavorano, non c'è un aiuto, un compenso, le maquilladoras non prevedono questa crescita a Ciudad Juárez inaspettata per le autorità, e non esistono nemmeno luoghi dove i bambini possano divertirsi, non c'è spazio sufficiente, le case sono troppo piccole. Tremenda, no? Sí, general. Tutto questo provoca una violenza tremenda generale. Hay machismo, muchísimo machismo, no? La cultura patriarcal persiste. Il contesto è questo, c'è moltissimo machismo, la cultura patriarcale persiste, ora direi che è un aumento perché queste condizioni di lavoro per le donne che occupano le maquilladoras presumano che le donne lavorino meglio, più velocemente, non sbagliano, non bevono, vengono pagate meno e non protestano, non hanno capacità secondo loro di organizzarsi e dunque. E dunque conviene assumere le donne. Questo provoca una specie di violenza domestica perché i mariti ora devono dedicarsi alla casa. casa e questo li fa arrabbiare moltissimo. E le donne, come acquistano un po' di potere nonostante non guadagnino molto, si rendono conto che sono responsabili dell'economia della casa, allontanano il marito, decidono sul proprio corpo e magari hanno un altro uomo, e questo provoca omicidi. Sempre sono culpabilizzate di tutto questo che occorre, no? Incluso hai molti accidenti, mueren muchos niños. E le madri sono sempre colpevolizzate per tutto quello che succede, compresi molti incidenti, muoiono molti bambini, moltissimi bambini che rimangono soli a casa, bambini che affogano in una bacinella d'acqua, che cadono in un pozzo, che cadono dalle finestre, che cadono dal secondo piano, che si bruciano, bruciano la casa. Tutto questo succede perché le madri stanno lavorando. E allora ai commenti dei mezzi di comunicazione: madri, perché uscite e lasciate i figli soli? Sempre la colpa va alle donne, le donne che si mettono davanti alla famiglia, al lavoro. La mujer es muy trabajadora, la mujer en Juárez es movidísima. Perché le donne sono grandi lavoratrici, le donne di Juárez hanno molta forza, una grande necessità di sopravvivere, sono molto lavoratrici. Es decir, pasé de un hogar muy tranquilo, de un hogar donde fui muy amada, soy la primera de 9 hijos. Vengo da una famiglia molto tranquilla, una famiglia dove sono stata molto amata, sono la prima di 9 figli, ho lasciato molto presto la casa perché a 17 anni ho terminato i miei studi come maestra. También pues todo el interés, ¿verdad?, de desarrollar mi vida en relación a esta profesión porque tengo una vocación desde ho avuto molto interesse a sviluppare la mia vita intorno a questa professione di maestra perché ho una vocazione sin da bambina, mi piace moltissimo stare con i miei alunni. Attualmente lavoro in una scuola secondaria, ho 800 alunni che oriento. En la situación de pues bueno, trato de ayudarles en lo más que puedo para evitar que tento di aiutarli per il meglio perché non caschino nella droga, perché le ragazze non restino incinta o che non abbiano comportamenti promiscui, cosa molto comune a Ciudad Juárez. Sono orientatrice di adolescenti, faccio progetti che li aiutano a riflettere. Ya hicimos, por ejemplo, un libro con estos adolescentes, un libro donde ellos pusieron su conceptualización. Per esempio, abbiamo fatto un libro con questi adolescenti, un libro dove hanno potuto mettere le loro opinioni sulla città, hanno potuto mettere fotografie, lavoriamo in gruppi tematici e loro riflettono e in più danno come delle soluzioni dal loro punto di vista giovanile. Dicono, pensiamo che come adolescenti possiamo fare questo e questo, e lo scrivono. E poi lo mostrano alle altre scuole come esempio di quello che stanno facendo. Stiamo lavorando anche a gruppi di lavoro sui diritti umani e tutti questi lavori nella scuola dove lavoro. Sono anche maestra nella scuola normale superiore, ho una bella famiglia, ho un marito molto comprensivo che anche lui è impegnato nella lotta, i miei figli maschi e femmine che anche loro si dedicano a questi progetti che abbiamo con i bambini, con le madri delle ragazze assassinate. Y bueno, lamentablemente que ahora mis hijas no viven conmigo, ¿verdad? Porque yo a partir del 2004 que recibí amenazas por parte. Purtroppo ora le mie figlie non vivono con me perché io a partire dal 2004 quando ho ricevuto minacce da parte dello Stato di Chihuahua, ossia dal potere regionale, ho dovuto allontanare le mie figlie da Ciudad Juárez perché violarlas y asesinarlas frente a mí. Mi minacciarono di sequestrarle, violentarle, assassinarle davanti a me. Dunque ora siamo un po' separate, ma non così tanto perché ci parliamo ogni giorno e pues me siento muy acompañada, ¿no? Por la familia. La realidad es que también hablo con mis padres todos. E sento la famiglia molto vicina a me, parlo tutti i giorni con i miei genitori che sono molto cattolici, piangono tutti i giorni per me, questo mi dà molta forza, mi fa sentire ben accompagnata, molto forte, ricevo molta solidarietà e credo che questo mi ha aiutato a sostenere questa lotta che è stata molto difficile. Situaciones que pues han tratado de denigrarme. Ho ricevuto molti insulti, molte minacce, ho vissuto situazioni in cui hanno cercato di denigrarmi, accusarmi di delitti che non ho commesso, cose che se non avessi avuto tutta questa forza vicino a me, chissà, forse non avrei resistito. Los asesinatos de mujeres hace que se me acuse. Ovviamente è la fiscalia che tenta di risolvere, tra virgolette, questi casi di uccisioni di donne, fa in modo che mi si accusi, formula mandati di comparizione televisione per discreditarmi davanti ai mezzi di comunicazione. Sabes y mides. E tutto questo però fortunatamente quando ti trovi in simili circostanze sai e vedi che sei circondata dalla solidarietà della gente, ti chiedi come tutta questa gente che crede in me, allora devo andare avanti. La verità è che se io non avessi avuto tutta questa solidarietà magari sarei stata più debole, mi sarei ritirata, già solo con la prima minaccia che mi hanno fatto, forte, perché ne ho ricevute moltissime, ho ricevuto minacce. La prima fu nel 2001 quando stavo protestando per l'assassinio di Alejandra e le altre madri si avvicinarono a me per chiedere aiuto, e io ho fatto la prima carovana per accompagnare le madri e protestare davanti al governatore. Questa fu la prima pressione che ho ricevuto quando due uomini del governo mi hanno presa dalla scuola dove stavo tenendo una lezione. Mi minacciarono, il procuratore dello Stato di Chihuahua è arrivato a Ciudad Juárez per farmi minacce, dicendo che avrebbero potuto uccidere le mie figlie perché stavo organizzando le proteste per le donne uccise. In seguito tentarono di sequestrarmi. Nel 2004 mi pusieron una pistola en la cabeza e me rompieron un diente con la pistola. Questo successe nell'ottobre del 2004, mi puntarono una pistola nella testa, mi hanno rotto un dente con la pistola perché me l'hanno messa in bocca e poi mi hanno detto che avrebbero sequestrato le mie figlie, e questa è stata un'esperienza molto dura che però mi ha rinforzata. Ya puedo resistir cualquier otra cosa, ¿no? Ya con esto. E questa è la testimonianza di Marisela Ortiz Rivera, anche lei appunto dell'associazione Nuestras Hijas de Regreso a Casa, un'associazione che raccoglie i familiari delle donne, delle giovani donne o uccise o scomparse. L'abbiamo, lo ricordiamo, incontrata due settimane fa alla Casa Internazionale in una iniziativa promossa e organizzata dalle Donne in Nero. E noi abbiamo sforato il tempo della nostra trasmissione, che praticamente si conclude qui, e vi volevo ricordare però che sul sito www.mujeresdejuarez.org trovate una petizione lanciata appunto dalle varie associazioni che lottano contro questi crimini, una petizione che ovviamente a livello internazionale è molto importante firmare. Noi vi salutiamo qui, un saluto va come sempre a tutte coloro e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale. Vi lasciamo con un brano di sempre lei, Mercedes Sosa, oggi abbiamo scelta come voce consapevole della trasmissione, Maria Va. Ciao. Mirar rasgados, patitas chuecas, María Va, pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina al monte un sol de fuego, María va. Temor bombero palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad.